1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati. E allora questo suono è funky, questo suono è tranqui, perché io la musica la tratto con i guanti. Lega i legamenti, se mi senti ti accendi, delle vibrazioni segui i movimenti. Faccia sorridente e beviamoci una birra, poi scendi giù in pista, se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere. Tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che funky significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo e non strillo. Come il parmacotto, accattate villo. Dimmi sa il mio nome, sì. E allora dillo. E tranqui funky è il nome del mio ballo. Baciami piccina sulla di bocca piccolina. Muoviti arrabbiante tipo playmate di Playboy. Ok, tutto fila liscio come con i Casadei. Ehi, ci sei, ci siamo, andiamo. Sono pagati in pieno, vi amo. E tranqui funky come siamo. Parlare ne ho, ma è inutile parlare se nessuno ascolta. Dunque io ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky. A me piace la musica quando trasmette sentimenti, dire le mie cose senza complimenti, bere birra, fare tardi accidenti, ballare con le tipe con i vari strusciamenti. Sono in posizione, portare il funky nella mia nazione è la mia missione. Se vuoi darmi una mano fatti avanti, scendi in pista tranqui e ballati sto funky. Gira intorno.